Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di Un abuso al giorno. Ormai da oltre un anno vi facciamo quotidianamente compagnia. A quest'ora siamo intorno alle 6:45 del mattino e in replica alle 20:45. Subito vi ricordo l'indirizzo mail al quale scrivere: un abuso al giorno @radio24.it. Mi raccomando, casi che possano essere esemplificativi non solo di chi scrive, ma anche di una platea più numerosa, in maniera tale, insomma, da affrontare delle situazioni in cui si possano riconoscere molti radioascoltatori. Allora, ieri abbiamo ascoltato e abbiamo affrontato un caso che in realtà già era stato nelle nostre mire un anno fa. Parliamo di un ascensore per disabili che non funziona o funziona poco a Termoli. Ci troviamo quindi in Molise. Ieri abbiamo avuto tre ospiti graditi che hanno civilmente discusso tra di loro, che risaluto: Antonio Fasciano, che è il nostro radioascoltatore. Buongiorno a tutti voi. Mario Di Blasio, che è l'assessore ai lavori pubblici del comune di Termoli. Buongiorno a lei e ai suoi spettatori. E Paolo Pallotta, che è il direttore compartimentale Movimento di Bari di RFI Reti Ferroviarie Italiane. Buongiorno, saluto lei e saluto gli ascoltatori. Allora, come spesso succede in Italia, le istituzioni o comunque soggetti chiamati a risolvere i problemi si palleggiano le responsabilità. E bene o male è quello che poi ieri è successo in una prima fase e nelle prime battute tra il comune di Termoli e Reti Ferroviarie Italiane. Non è che avessimo capito bene fino in fondo quello che doveva l'uno e quello che doveva l'altro per cercare di portare a soluzione un problema che in realtà data da anni. Ed allora, Pallotta, qual è la situazione? Come va avanti la diatriba o il dialogo tra voi e il comune di Termoli? Adesso faremo un incontro con il comune, possiamo completare l'attivazione degli ascensori, anche perché lasciare una cosa così, e poi dopo, se il sindaco vuole le scale mobili, le tapirulane, che le faccia a suo piacimento. Quindi a questo punto voi garantite, mi pare di capire, ingegner Pallotta? No, adesso prima rifaremo un passaggio con il comune, mi sembra corretto, anche perché ci eravamo lasciati in questo senso, in questo termine. Quindi voi siete Io disposti di contattare il comune di Termoli, di fare un incontro a breve, brevissimo, la prossima settimana, fra due settimane, tre settimane, e riprendiamo il discorso. Benissimo. Nel frattempo io chiamo il sindaco, noi ci possiamo trovare, stabiliamo, rimettiamo le carte sul tavolo, quello che possiamo fare noi siamo disponibili a farlo da subito. Ecco, ma l'ingegnere... mettere in servizio gli ascensori. Che ecco, il punto è che però il sindaco di Termoli è dimissionario, ingegner Di Blasio, e quindi... Sì, ascolti, io prima nella sostanza, però mi deve dare un po' di tempo. Io non le rispondo perché la competenza della realizzazione degli ascensori e quindi l'accesso ai diversamente abili sta alle ferrovie. Noi ci entriamo, sa perché? Perché questo passaggio sottopasso pedonale può essere utilizzato per uno spostamento di cittadini da una parte all'altra della città. Se non fosse per questo, noi non siamo soggetti interessati alla questione. Non so se però, si capisce questa cosa. Se lei chiede a me perché, scusi, aspetti, se lei chiede all'amicuno di Termoli perché non realizza le strutture necessarie per entrare per l'accesso ai binari diversamente abili, fa la domanda a un soggetto che non è deputato a rispondere. D'accordo. Noi siamo stati, siamo stati chiamati in causa semplicemente per l'uso promiscuo di questi ascensori. Sì, ma la gente, ingegnere, mi scusi, ma la gente non capisce cosa vuol dire uso promiscuo. Gli ascensori non interessano per andare ecco. in binario, a noi possono interessare per attraversare una parte o l'altra della città. Però mi fa la domanda sugli ascensori, che le devo dire? Ecco. L'accesso non si ha a noi. Ecco, però mi consenta, come direbbe qualcuno molto molto più importante di me nel suo intercalare politico, il disabile comunque continua ad avere il problema e quindi qualcuno sarà il responsabile. Ora, voi vi chiamate fuori, RFI invece dice che vuole chiamare in causa il comune, come se ne esce da questa situazione? Ascolti, lo sa lei che le ferrovie hanno il raddoppio della Termoli-Lesine? Noi all'interno di questi discorsi abbiamo detto invece che fare soluzioni tampone, tampone che non porta a niente, facciamo un discorso più razionale complessivo. Questa è la posizione. D'accordo. E allora vede che cominciamo finalmente a parlare di problemi. Ingegner Pallotta. Accesso ai binari, io non sono interessato. Allora, Ingegner Pallotta, insomma, la questione dei disabili dovete risolverla voi, mi pare di capire. Chiudiamo il servizio degli ascensori e chiudiamo il discorso. Quindi abbiamo il progetto per gli ascensori, li andiamo funzionanti. Oh, mi fa quello piacere. Che stavo dicendo che noi i disabili, se preannunciati in viaggio, li possiamo prendere sul marciapiede dove c'è l'ascensore senza alcun problema. Ecco, però allora ripeto ecco, allora ripeto una domanda. Probabilmente lei non è il responsabile, chiaramente, perché non può esserlo lei. Però allora quei due ascensori perché sono stati costruiti e perché non funzionano? Se poi creano più disagi che invece, come dire, un aiuto ai disabili. Ingegner Pallotta? Sì, mi dica. No, stavo dicendo, allora come mai però questi due ascensori allora sono stati costruiti? Sono stati costruiti per sono stati costruiti 20 anni fa per i cittadini, per l'uso, per i viaggiatori, per i cittadini della... Ho capito. Allora, noi senza essercene accorti stiamo continuando, come dire, a registrare al punto tale che abbiamo, senza volerlo, fatto già così la seconda puntata da mandare in onda, quindi ne potremo poi fare una terza fra 3 settimane. Io ho poche speranze perché il sindaco è dimissionario. Quindi chiedo al nostro radioascoltatore Fasciano, ma lei è contento di questa discussione che abbiamo fatto in queste due puntate che abbiamo dedicato all'argomento ascensori che non funzionano per i disabili nella stazione di Termoli? Guardi, io alcune risposte mi lasciano molto perplesso, perché una volta che le persone sia disabili che non, perché comunque la ripidità delle scale dove ci piove, quindi queste responsabilità sono dell'ingegner Pallotta, quindi ci piove, almeno queste sono le loro responsabilità. Il fatto che la gente scenda dal treno e debba fare delle scalinate rapidissime, ripidissime, per scendere giù nel corridoio che poi porta all'esterno della stazione dove c'è un'altra scalinata di 100 gradini ripidissima, questo ci induce a pensare che invece gli ascensori servono sia alla città ma anche a tutti i clienti di, e questo, di, e questo è sacrosanto. Mi pare che però non ci sia intesa fra Comune ed RFI, tanto che, mi corregga se sbaglio, ingegner Pallotta, lei a un certo punto ha detto vabbè, ma se è così allora facciamo gli ascensori, facciamole funzionare, non se ne parla più, o sbaglio? La cosa, cioè noi cercavamo prioritariamente, ovviamente, il rapporto con l'ente locale, che è fondamentale per noi, quindi di fare le cose d'intesa con l'ente locale. Questa è la filosofia dell'azienda, che cerca sempre. Certo. Però se un problema non riusciamo a risolvere, lo risolviamo secondo il progetto che avete già messo in campo. Un altro tentativo con il comune lo faremo, un altro incontro, se possibile, quindi cercheremo di dar corso, perché vogliamo onorare gli impegni. Ecco, una curiosità, ingegner Pallotta. Prego. La stazione di Termoli sarà interessata a un progetto di ammodernamento, di ristrutturazione, per cui verranno, tra le altre cose, sistemate le pensiline. Ah, benissimo, questa qui è una buona notizia. Ingegner Pallotta, mi scusi una curiosità, ma nel momento in cui voi deciderete di fare i lavori impropri, se non troverete l'accordo, comunque, come dire, un matrimonio con il comune di Termoli, quanto tempo passerà fino prima che questi ascensori possano finalmente funzionare? Senta, noi adesso appaltiamo il lavoro e i tempi tecnici di una gara e della realizzazione delle opere, quindi adesso non mi faccia dire una data, che poi dopo uno, prima di dire una data, vorrei essere sicuro di... Magari se ci risentiamo per quella volta adesso dire. Assolutamente. Ingegner Di Blasio, io intanto ringrazio ingegner Pallotta per la sua disponibilità e ringrazio Rete Ferroviaria Italiana. Ingegner Di Blasio, vuole aggiungere qualcosa a questa discussione? Sì, quello che voglio dire io è che praticamente è un problema che ci riguarda dal punto di vista sociale, dal punto di vista di avere un servizio migliore per l'accesso ai binari, torno a dire. È chiaro che su questo come ente siamo interessati, però voglio dire, la competenza è per la realizzazione, è per la progettazione, è per le risorse finanziarie necessarie. Sta comunque a Ferrovie, ecco, questo è il discorso. Va bene. D'accordo, allora il discorso ora è stato chiarito, rimane il disagio per i disabili e speriamo che possa presto essere a Termoli, come altrove, portato a soluzione. Grazie al nostro radioascoltatore Antonio Fasciano. Io dico grazie in regia a Fabio Cantadori, in studio a Laura Faggin, e Roberto Galullo vi ricorda la mail alla quale scrivere: unabusoalgiorno@radio24.it. Mi raccomando, non casi personali, ma casi che possono interessare una platea di radioascoltatori e di persone, perché i casi personali ovviamente non possiamo risolverli. E vi ricordo anche il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore, http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Da Roberto Galullo, appunto, una buona giornata a tutti.